Poi, sempre con Genovese, organizza l'uccisione di un altro boss, Salvatore Maranzano, e diviene il principale boss della criminalità organizzata negli Stati Uniti e capo della commissione da lui costituita. Vito Genovese divenne il vice capo nel 1936, venne arrestato per sfruttamento della prostituzione. Nel 1946 Luciano viene graziato per i servizi resi alla Marina a condizione che lasciasse gli Stati Uniti per stabilirsi in Italia. Grazie al controllo mafioso del porto di New York, infatti, Luciano aveva neutralizzato le spie naziste che agivano lì. Una volta arrivato in Italia, soggiornò a Palermo, presso il Grand Hotel delle Palme, dove numerosi membri del separatismo siciliano e boss mafiosi erano soliti rendergli visita. Immediatamente Michele Sindona comincia a darsi da fare a intrattenere rapporti con Langot, il governo militare alleato. Compra grano dal capomafia Baldassarre Tinebra, nominato sindaco di Regalbuto dagli americani, e socio di Calogero Vizzini, il capo della mafia siciliana in quel periodo, per rivenderlo al governo militare alleato, facendogli pagare in armi che rivendeva poi a Levis, l'esercito volontario per l'indipendenza della Sicilia, formazione paramilitare clandestina che agì in Sicilia nel secondo dopoguerra, del quale faceva parte Salvatore Giuliano, uno dei responsabili della strage di Portella della Ginestra avvenuta il 1 maggio 1947. Infatti, dopo lo sbarco in Sicilia degli americani, molti mafiosi diventeranno sindaci. Prima dello sbarco alleato in Sicilia, Lucky Luciano fornì alle autorità statunitensi 850 nomi di persone amiche in Sicilia. Solo in provincia di Palermo furono poi nominati 62 sindaci mafiosi presenti nell'elenco fornito o comunque a questi vicini. Anche John McCaffery è in rapporti di amicizia e affari con Sindona in quel periodo. McCaffery è capo dei servizi segreti inglesi fino al 1945 e membro della potente loggia massonica di Edimburgo. Il suo compito, insieme ai suoi ufficiali di collegamento, è quello di salvare il nostro paese dal comunismo, mettendosi a capo delle bande partigiane bianche e per fare in modo che le armate tedesche si arrendano tutte insieme, senza dispersioni o diserzioni, così potranno essere usate in un momento successivo contro il comunismo. Nel 1946 Sindona si trasferisce a Milano, apparentemente con i proventi del losco traffico in Sicilia e nient'altro, ma dopo 10 anni amministra un patrimonio di ben 300 miliardi. La ragione del suo successo è da ricercare nel viaggio che nel 1952 Sindona compì negli USA, dove consolidò le sue conoscenze all'interno di Cosa Nostra, con i servizi segreti statunitensi e con gli ambienti finanziari. Al ritorno da questo viaggio cominciò ad operare come incaricato d'affari di società americane e in questa veste che entra in rapporti con Franco Marinotti, fascista, padrone della Snia viscosa, della quale Sindona vende i brevetti per la fabbricazione di fibre in USA. Marinotti, guarda caso, ha collaborato durante l'ultimo periodo della guerra con John McCaffery. Attraverso Marinotti, Sindona entra in rapporti con Ernesto Moizzi, che possiede una piccola banca con cui opera in borsa, per conto della Snia Viscosa, la banca privata finanziaria, che poi verrà fusa nel 1974 con la Banca Unione, nella banca privata italiana. Moizzi possiede anche le fonderie Vanzetti, una specie di azienda rottame di cui non sa come liberarsi. Sindona trova un compratore pronto a pagare senza battere ciglio il triplo del valore dell'azienda. Si chiama Dan Porco, boss mafioso e rappresentante della Crucible Steel of America, che fa parte del gruppo Colt Industries. la grande multinazionale produttrice di armi. Dopo la vendita delle acciaierie Vanzetti, Sindona si guadagna presso Moizzi la totale fiducia e ne diviene socio. Sindona continua a tessere i suoi rapporti con Cosa Nostra statunitense e quando Joe Adonis viene a Milano nel febbraio 1956 per coordinare l'insieme delle attività mafiose in tutta l'Europa centro-occidentale, soprattutto il traffico di stupefacenti in Germania ed Olanda, lo incontra. Joe Adonis, per giustificare la sua prolungata presenza in Italia, si presentava come incaricato da società USA di investire nel campo dei supermercati e degli impianti alberghieri. Frequenta quindi assiduamente Sindona, che gli fa da consulente fiscale. Successivamente Adonis incaricò Sindona di svolgere alcune missioni di fiducia negli Stati Uniti. Il 12 ottobre 1957, grazie a simili entrature, Sindona partecipa al summit di Cosa Nostra statunitense e della mafia siciliana a Palermo, all'Hotel delle Palme, dove vengono decise le strategie del traffico di stupefacenti. La Sicilia sarà un punto di passaggio di questo traffico. Sono presenti Joe Bananas, Joseph Palermo, John Di Bellis, in rappresentanza della famiglia genovese, Vito Vitale, Genco Russo e Lucky Luciano in rappresentanza della mafia siciliana. Nonostante che la riunione si svolgesse in un luogo praticamente pubblico come il salone dell'hotel, né carabinieri né polizia dissero di esserne a conoscenza se non quando i boss erano già tornati nei luoghi di provenienza. Nel 1959 poi Sindona torna negli Stati Uniti su incarico di Adonis e si incontra con esponenti della famiglia di Genovese, ancora una volta, al quale l'avvocaticchio sistema le situazioni contabile e fiscale delle loro società cosiddette legali. Dopodiché Michele Sindona entra nella P2 di Licio Gelli, dove conosce John McCon, direttore repubblicano della CIA, fervente cattolico e in stretti rapporti con alti prelati. Nel 1962 Sindona, grazie alle nuove conoscenze, viene incaricato dal Vaticano di, virgolettato, curare gli affari della Chiesa negli Stati Uniti e dello IOR, l'Istituto per le Opere Religiose, la Banca del Vaticano, che sarà oggetto di scandali, nel quale Sindona entra con una partecipazione del 24,5% della banca privata italiana, di cui nel frattempo Sindona è riuscito ad assumere il pieno controllo con capitali di dubbia provenienza. Gli altri soci di minoranza sono la Continental Illinois Bank, la maggior banca cattolica statunitense, di cui è presidente David Kennedy, nona per attività di bilancio negli USA ed una delle più utilizzate dalla CIA per le sue operazioni, è la Ambrose Bank, inglese. David Kennedy è amico e concittadino di Paul Marcinkus, presidente dello IOR e di Dan Porco, e così il cerchio si chiude. Kennedy è socio anche di Sindona nella Fasco AG, la società del Liechtenstein da cui Sindona manovra in tutto il mondo. La Ambrose Bank di Londra è invece posseduta da Jocelyn Ambro, un collaboratore durante la Seconda Guerra Mondiale di John McCaffery. Ambro era entrato in rapporti durante la sua attività nell'intelligence service inglese con l'industriale Marinotti, quello della SNIA, e con Edgardo Sogno, partigiano bianco, che poi sarà a capo di un tentativo di colpo di Stato in Italia, il cosiddetto golpe bianco, con cui Sindona continuò a mantenere rapporti di solida amicizia. Nel dicembre del 1965 Sindona, tramite un'operazione bancaria, trasferisce a Junio Valerio Borghese, ex comandante della decima MAS durante la Repubblica di Salò e a capo del tentativo di colpo di Stato del 1970, una forte somma consegnatagli dall'Opus Dei spagnola. Ed ora ascoltiamoci un pezzo del collettivo Vittor Jara, Mi piaci Fanfani. Mi Oggi, 27 agosto 1974, si è verificato dalle 9.30 alle 11.30 un improvviso calo di energia elettrica. Le cause sono per ora rimaste ignote. Ma che succede? Ma chi ha spento la luce? Ma accendete la luce, per Dio, ma cos'è questo buio? Ahi, ma che fa, spinge? Ma cos'ha lì? Pasta! Quintali di pasta! Sepolto dalla pasta! E mi lasci passare, non vede che sto imboscando? Ah, scusi, scusi, imboschi pure. E lei dove va con questa divisa buffa? Quale buffa divisa? Io sono il generale Berti della forestale e sono mandato qui per protezione degli incendi dei boschi. Io sono della forestale, insomma. Ma quali boschi? Qui non ce n'è boschi. Come non ci sono boschi? Io sono mandato qui, ma non c'è nemmeno una zona verde, che so io. Ma che zona verde? Qui siamo in via Teulada, davanti alla RAI, ma cosa vuole? Ecco, vede, se la prendono sempre con me. A me mi ha mandato Valerio, va bene, poi se la prendono sempre con me. Esorcismo, esorcismo, che sconfiggi il terrorismo. Trallallero, trallallia, bomba va via, bomba va via. La bomba non c'è più, la bomba non c'è più, la bomba non c'è più. Oh, Santillo, ma è lei onorevole? Come basso, ma che fa, beve benzina? Mangia vacche intere? Quanto è forte. Quadrato, così ben curato, le mani grassocce, le dita un po' tozze, lo sguardo rapace, che è di chi piace. Mi piace la pancia cadente da vecchio gaudente, la grinta selvaggia che scava la faccia, quel piglio virile da uomo del nostro avvenire. Sei grasso e peloso, sei piccolo e tondo, però io per te brucerai mezzo mondo, e quei baffi mi fanno impazzire. Mi piaci Fanfani. E poi mi hanno detto tra l'altro che sei un esperto, sei furbo, sei scalto e da tempo governi un paese troppe pretese, di gente che per ingrassare divora bistecche, ma a te le ragazze ti piacciono secche, così furbacchione che cosa ci inventi, ci tagli la spesa, ci levi la ciccia, ci dai il vitellone. Però com'è duro, sei basso e peloso, sei piccolo e tondo, però io per te brucerei mezzo mondo, sei bello, sei forte, sei l'uomo del nostro futuro. Mi piaci Fanfani. Rincari la pasta, però non ti basta, la metti in cantina stipata per bene, in mezzo allo zucchero ed al cherosene. Citassi di sopra, citassi di sotto, citassi le brache, citassi il cappotto, citassi sul bollo, citassi sul collo, per farci soffrire ci dai la benzina a 300 lire. Per farci robusti tra poco ci vedi andare tutti a piedi, da Roma a Torino, da Reggio a Berlino, in lunghe colonne, davanti le donne, dietro i bambini, andiamo sudati coi piedi fasciati, però siamo contenti così. Ci sono meno incidenti. Sei basso e peloso, sei piccolo e tondo, però io per te brucerai mezzo mondo, e quei baffi mi fanno impazzire. Mi piaci Fanfani. La bomba sul treno ti ha dato la scossa, hai detto a Taviani di fare canossa, Taviani ha gridato, sondere le piste, avanti Savoia, chi è che l'ha viste? È morto Valerio, ma chi se ne frega, siamo sempre lo stesso, una bella congrega. Ma capita sempre, se sei in compagnia, c'è sempre di mezzo qualcuno che spia. Porcaccia miseria, che scherzi cretini, non è proprio il caso, signor Giannettini. La storia ci puzza, si parla di colpe, povero nano, ti danno le colpe. Ma tu ci dimostri che sei una volpe, e mentre la trama diventa più chiara, sparisce la luce. Sei basso e peloso, sei piccolo e tondo, però io per te brucerai mezzo mondo, c'hai proprio la faccia da furbo, da piccolo duce. piaci Fanfani. Ci Fanfani. Nell'inverno del 1968 Michele Sindona entra in rapporto di affari con Roberto Calvi e in novembre acquisisce il controllo anche della finanziaria Sviluppo. Nell'inverno del 1970 il Banco Ambrosiano di Roberto Calvi acquista la società Compendium di Michele Sindona. Il 30 giugno 1971 Sindona riesce a conquistare il controllo della centrale e l'8 ottobre tenta di conquistare il controllo della Bastoci, ma senza successo. Nel 1972 entrò in possesso di un pacchetto azionario della Franklin National Bank, ma poco tempo dopo la banca divenne insolvente, tanto da andare in bancarotta fraudolenta. Nel 1973, il 15 aprile, il presidente del Consiglio Andreotti parte per un lungo viaggio negli USA e in Giappone. A New York elogia Michele Sindona, definendolo salvatore della lira. E il 17 maggio Michele Sindona tenta di aumentare il capitale della Finambro da 1 milione a 160 miliardi. Ma l'operazione viene bloccata dall'opposizione del ministro Lamalfa e di molti finanzieri di area laica. È l'inizio della fine di Sindona. Nel 1974, nel tentativo di salvare le banche di Sindona dal crack, il Banco di Roma, su interessamento di Andreotti e Fanfani, accordò un prestito di 100 milioni di dollari a Sindona, che contraccambiò versando 2 miliardi di lire alla Democrazia Cristiana in occasione della campagna elettorale per il referendum sul divorzio. Il Banco di Roma cercò anche di rilevare la Banca Privata Italiana. L'acquisizione da parte del Banco di Roma fu però bloccata dall'IRI. In gennaio Michele Sindona viene premiato dall'ambasciatore statunitense a Roma come uomo dell'anno. A metà degli anni 70 Sindona aveva un patrimonio stimato in oltre mezzo miliardo di dollari dell'epoca. Il 27 settembre dello stesso anno il ministro del Tesoro dispone la liquidazione coatta della banca privata finanziaria di Michele Sindona e nomina come liquidatore Giorgio Ambrosoli. È l'inizio del crollo a catena di tutta una serie di istituti finanziari dell'impero di Sindona in Europa e negli Stati Uniti. Nel crack è coinvolto anche lo IOR, la banca del Vaticano. Sindona fugge negli Stati Uniti. Con Sindona sparisce una lista di 500 italiani che attraverso le sue banche hanno esportato clandestinamente all'estero somme enormi per 5 anni, tra il 1974 e il 1979. L'8 ottobre la Procura della Repubblica di Milano spicca mandato di cattura contro Sindona, latitante negli Stati Uniti per il crack della banca privata italiana e della consociata USA Franklin National Bank. Fu stimato un buco di 258 miliardi di lire e la magistratura milanese avanzò formale richiesta di estradizione nei confronti di Sindona per il reato di bancarotta fraudolenta, ma gli Stati Uniti non concessero al momento l'estradizione. Nell'inverno del 1975 Roberto Calvi diventa presidente del Banco Ambrosiano. I suoi padrini sono Michele Sindona e Licio Gelli. Calvi, anche lui iscritto alla P2, porterà ai vertici della finanza mondiale la sua banca. Il 12 luglio 1979 Giorgio Ambrosoli, commissario liquidatore delle banche di Sindona, che ha indagato per più di 3 anni i risvolti segreti dell'attività internazionale del banchiere, viene ucciso a Milano con 4 colpi di pistola da William Joseph Haricot, un killer venuto dagli Stati Uniti. Il 21 luglio dello stesso anno a Palermo, il capo della squadra mobile, Boris Giuliano, che indaga sul rapporto tra banche italo-americane sulla base della ricostruzione fatta da Ambrosoli, viene assassinato anche lui. L'avvocato Giuseppe Melzi, legale dei piccoli azionisti delle banche di Sindona, parla di un incontro avvenuto verso la metà di giugno 1979 tra Giuliano e Ambrosoli. Sia il commissario che il liquidatore della banca privata, dice, si sono trovati ad indagare sulle stesse piste del riciclaggio del denaro sporco a cui circuiti finanziari nazionali e internazionali di carattere occulto. Ed ora ascoltiamoci un pezzo dei Van de Graaff Generator, Killer. Il 2 agosto 1979 Sindona sparisce da New York. Viene orchestrato un tentativo per far credere che è stato rapito da dei terroristi, ma il depistaggio non funziona. In realtà Sindona raggiunge segretamente la Sicilia, mettendosi in contatto con gruppi che vogliono organizzare un golpe separatista nell'isola, dove si farà sparare a una gamba per rendere più credibile la tesi del rapimento. Lo assisterà il chirurgo Michele Crimi, iscritto alla P2 e per 15 anni medico della questura di Palermo. Poi andrà in Grecia e in Austria. Il 16 ottobre Sindona ricompare a New York. Nel 1980 Sindona venne condannato negli Stati Uniti per 65 accuse, tra cui frode, spergiuro, false dichiarazioni bancarie e appropriazione indebita di fondi bancari e viene condannato, oltre alla pena detentiva di 25 anni di carcere, a una multa di $207,000. Il 17 marzo del 1981 la magistratura di Milano, cercando prove sull'eventuale coinvolgimento di Licio Gelli nella farsa del rapimento di Sindona a New York, in particolare sul chirurgo Michele Crimi, ordina la perquisizione della villa di Gelli e di altri suoi uffici e viene messo le mani su documenti che provano l'esistenza di una cospirazione dietro la facciata della loggia massonica Propaganda 2, della quale verrà recuperato un elenco parziale di 963 iscritti, comprendenti uomini dei servizi segreti, politici, finanziari, banchieri, personaggi dello spettacolo, alti ufficiali, funzionari dello Stato, quasi tutti ostentatamente cattolici. Forse per questo, 15 giorni prima, il Vaticano emetteva un comunicato che ricordava le leggi canoniche che proibiscono, sotto pena di scomunica, di appartenere alla massoneria. È da chiedersi perché tale comunicato è stato emesso proprio in quel momento, forse per limitare i danni, visto che le disposizioni richiamate sono in vigore dal lontano 1738. Sugli iscritti alla P2 convengono le inchieste su gran parte dei misteri italiani, dalla strage di Piazza Fontana agli scandali del petrolio, alle trame nere, agli intrighi dei servizi segreti. La P2 risulta avesse conti in Svizzera per circa 1.000 miliardi. Si chiariscono anche i legami esistenti fra Gelli, la P2 e Michele Sindona, Roberto Calvi, la finanza internazionale, la mafia, i servizi segreti statunitensi e golpisti di tutto il mondo dall'Italia all'Argentina. Il 16 ottobre del 1982 muore Giorgio Di Nunzio, che aveva raccolto in un voluminoso dossier la documentazione riservata riguardante i rapporti tra Sindona e Marcinkus. Il dossier sarà ceduto a Francesco Pazienza e da questo a Calvi. Il dossier finì nelle mani anche del cardinale Begnozzi, il quale però morì prima di utilizzarlo. Il 25 marzo del 1984 gli Stati Uniti concedono l'estradizione in Italia di Michele Sindona, dove deve essere processato per il fallimento della banca privata. Il 25 settembre Michele Sindona, ancora nel carcere di Otisville, negli Stati Uniti, viene trasferito provvisoriamente nel carcere di Regina Coeli, a Roma, per poi essere trasferito nel carcere di Voghera. Pochi giorni dopo, il Sole 24 Ore gli dedicò una pagina intera chiedendosi: è possibile che Sindona, il quale vive nel terrore di ricevere prima o poi un caffè alla Pisciotta, si metta ora a raccontare qualche particolare inedito solo per porre in difficoltà qualcuno dei suoi vecchi e altolocati amici? Tipo Andreotti, ad esempio, o qualche altro bic della politica o di Cosa Nostra? Ed ora ascoltiamoci una canzone di Claudio Lolli, Borghesia. Vecchia piccola borghesia, per piccina che tu sia, non so dire se fai più rabbia, pena, schifo o malinconia. Sei contenta se un ladro muore, se si arresta una puttana, se la parrocchia del Sacro Cuore acquista una nuova campana. Sei soddisfatta dei danni altrui, ti tieni stretti i denari tuoi, assillata dal gran tormento che un giorno se li riprende il vento. e la domenica vestita a festa, con i capi famiglia in testa, ti raduni nelle tue chiese, in ogni città, in ogni paese, presti ascolto all'omelia, rinunciando all'osteria, così grigia e così per bene, ti porti a spasso le tue catene. Vecchia piccola borghesia, per piccina che tu sia, non so dire se fai più rabbia, pena, schifo o malinconia. Gli anormali son trattati da criminali, chiuderesti in un manicomio tutti gli zingari e intellettuali. Ami ordine e disciplina, adori la tua polizia, tranne quando deve indagare su di un bilancio fallimentare. Sai rubare con discrezione, meschinità e moderazione, alterando bilanci e conti, fatture, bolle di commissione. Sai mentire con cortesia, con cinismo e vigliaccheria, hai fatto dell'ipocrisia la tua formula di poesia. Vecchia piccola borghesia, per piccina che tu sia, non so dire se fai più rabbia, pena, schifo o malinconia. Sopporti chi fa l'amore più di una volta alla settimana, chi lo fa per più di due ore, chi lo fa in maniera strana, di disgrazie puoi averne tante, per esempio una figlia artista, oppure un figlio non commerciante, o peggio ancora uno comunista. Sempre pronta a spettegolare in nome del civile rispetto, sempre lì fissa a scrutare un orizzonte che si ferma al tetto, sempre pronta a pestare le mani a chi arranca dentro a una fossa, sempre pronta a leccar le ossa al più ricco e dai suoi cani. Vecchia piccola borghesia, vecchia gente di casa mia, per piccina che tu sia, il vento un giorno ti spazzerà via. Sindona fu effettivamente avvelenato con un caffè al cianuro di potassio, mentre era detenuto nel supercarcere di Voghera. Morì in ospedale il 22 marzo 1986. La sua morte è stata archiviata come suicidio, poiché il cianuro di potassio ha un odore particolarmente penetrante e quindi ne risulta difficile l'assunzione involontaria. Rimane ancora oggi ignota la persona che gli fornì il veleno. Resta comunque plausibile l'ipotesi che la dose di cianuro fornita sia stata volutamente maggiorata per causarne la morte, prima che potesse fare rivelazioni contro i potenti. Inoltre Sindona aveva continuato a richiedere di essere estradato negli Stati Uniti. È possibile che un tentato suicidio potesse essere un modo per ottenerla. Il 24 luglio del 1995 Antonio Di Pietro è stato ospite ed ha tenuto una conferenza presso uno dei gruppi di estrema destra statunitensi, il CSIS, Center for Strategic and International Studies. Fra le attività del CSIS va ricordata l'importante ruolo nella pianificazione del golpe in Cile nel 73. Lo stretto rapporto instaurato con il generale colpista Vito Micheli, ex capo del SID iscritto alla P2, e con il faccendiere Francesco Pazienza. Del CSIS faceva parte anche, essendo considerato dagli altri aderenti del centro perseguitato politico, Michele Sindona. Il 29 ottobre del 1996 viene richiesto dalla Procura di Palermo il rinvio a giudizio per Marcello Dell'Utri per concorso in associazione mafiosa. Nella memoria della Procura vengono acquisite anche le dichiarazioni del pentito Gioacchino Pennino, secondo cui centinaia di miliardi di Cosa Nostra sarebbero stati riciclati da Licio Gelli, Michele Sindona, Guido Calvi, Marcello Dell'Utri e Silvio Berlusconi. Il 28 aprile 1997, al processo per mafia contro Giulio Andreotti che si svolge a Palermo, depone come testimone Francesca Longo, fondatrice del Corpo Massonico Universale Femminile, che ospitò nella sua casa di Palermo nel settembre 1979 Michele Sindona durante il finto rapimento del banchiere. La Longo dichiara di essere stata costretta ad ospitare Sindona da Joseph Micheli Crimi, con cui aveva rapporti in quanto massone. Ancora nel 2010 Giulio Andreotti dava un giudizio positivo di Sindona. «Io cercavo di vedere con obiettività. Non sono mai stato sindoniano, non ho mai creduto che fosse il diavolo in persona. Il fatto che si occupasse sul piano internazionale dimostrava una competenza economico-finanziaria che gli dava in mano una carta che altri non avevano. Se non c'erano motivi di ostilità, non si poteva che parlarne bene». Quanto detto credo che faccia capire come gli assetti del potere economico, finanziario e politico in Italia erano, e continuano ad essere purtroppo, pericolosi per chi si batte per la libertà e per una società socialmente più giusta. Per chi volesse approfondire ci sono due film: I banchieri di Dio, il caso Calvi, con la regia di Giuseppe Ferrara del 2002, e Un eroe borghese con la regia di Michele Placido del 1995. Ci sono poi moltissimi libri, ne cito alcuni. Di Corrado Staiano, Un eroe borghese, il caso dell'avvocato Ambrosoli assassinato dalla mafia politica. Di Gianni Simoni e Giuseano Turone, Il caffè di Sindona, un finanziere d'avventura tra politica, Vaticano e mafia. Di Umberto Ambrosoli, Qualunque cosa succeda. Di Gianluigi Nuzzi, Vaticano S.P.A. Si conclude così anche questa puntata di Gioia e Rivoluzione, ma anche Sconfitte. Alla prossima.